ad alta voce. Daria De Florian legge Il diario di Anna Frank. Sabato 12 febbraio 1944. Cara Kitty, splende il sole. Il cielo è azzurro intenso. Soffia un venticello meraviglioso e vorrei tanto, vorrei tutto. Parlare, essere libera, avere amici, essere sola. Vorrei tanto piangere. Mi sembra di scoppiare e so che se piangessi starei meglio, ma non posso farlo. Sono inquieta. Passo da una stanza all'altra. Respiro l'aria dalle fessure di una finestra chiusa. Mi sento battere il cuore come se dicesse: esaudisci finalmente il mio desiderio. Penso che sia la primavera. Avverto il risveglio. Lo sento nel corpo e nell'anima. Devo sforzarmi di agire in modo normale. Sono totalmente confusa. Non so cosa leggere, cosa scrivere, cosa fare. So soltanto che vorrei tua Anne. Lunedì 14 febbraio 1944. Cara Kitty, da sabato per me è cambiato molto. È andata così. Avevo desideri, e ne ho tuttora, ma in piccola, piccolissima parte sono già stata esaudita. Già domenica mattina mi sono resa conto, sarò sincera, con grande felicità, che Peter mi guardava di continuo, in modo molto diverso dal solito, non lo so. Non saprei spiegare come, ma all'improvviso ho avuto la sensazione che tutto sommato non fosse poi innamorato di Margot quanto avevo pensato. Per tutto il giorno, a bella posta, ho evitato di guardarlo molto, perché quando lo guardavo, anche lui mi guardava di continuo e io, avevo una sensazione gradevole che preferivo non provare troppo spesso. Domenica sera tutti stavano vicino alla radio, eccetto io e Pim, ad ascoltare la Unsterbliche Musik Deutscher Meister. Dussel continuava a girare la rotella e Peter e anche gli altri si arrabbiavano. Dopo una mezz'ora di nervosismi trattenuti, Peter, che era anche un po' seccato, ha cercato di farlo smettere. Dussel, con la sua espressione più sdegnosa, ha sbottato: «Ich mach das schön, la sistemo io». Peter si infuria, diventa sfacciato. Il signor Van Dan lo appoggia e Dussel è costretto a cedere. Fine. Il pretesto in realtà non era poi così grave, ma pare che Peter se la sia presa molto, dato che questa mattina, mentre frugavo nella cassa dei libri in soffitta, è venuto a parlarmene. Io non ne sapevo niente. Peter ha notato che lo ascoltavo attentamente ed è partito in quarta. «Sì, perché vedi», mi ha detto, «è raro che io dica qualcosa, visto che so fin dall'inizio che non serve a niente. Balbetto, arrossisco e giro e rigiro le parole che volevo dire finché non devo interrompermi perché ho perso il filo. Ieri è andata proprio così, volevo dire tutt'un'altra cosa. Ma una volta incominciato ho perso il filo, una cosa tremenda. Un tempo avevo una brutta abitudine che riprenderei volentieri. Quando mi adiravo con qualcuno preferivo affrontarlo coi pugni che con le parole. Lo so bene che con questo sistema non vado avanti e per questo ti ammiro. Tu almeno sai difenderti con le parole, dici alla gente quello che vuoi dire e almeno non sei timida. Guarda che ti sbagli di grosso», gli ho risposto io. «Nella maggior parte dei casi dico le cose in modo molto diverso rispetto a come avevo previsto e parlo troppo, troppo a lungo, che è un guaio altrettanto grave. Può darsi. Comunque hai il vantaggio che non ti si vede mai in faccia che sei timida. Non cambi di colore e mantieni il tuo contegno». Ridevo sotto i baffi di questa frase, ma volevo che continuasse a parlare tranquillamente di sé. Per questo non gli ho dato a vedere. Ho preso un cuscino e mi sono seduta per terra appoggiando le mani sulle gambe piegate e l'ho guardato attentamente. Sono terribilmente contenta che in casa ci sia qualcuno che può avere accessi d'ira proprio come me. A Peter faceva molto bene poter parlare di Dussel nei termini più duri senza paura di qualcuno che facesse la spia, e anch'io ero contenta perché avvertivo una forte intimità che prima avevo soltanto con le mie amiche. Tua Anne. Mercoledì 16 febbraio 1944. Per tutto il giorno non ci siamo parlati, a parte un paio di parole prive di importanza. Faceva troppo freddo per andare in soffitta e poi era il compleanno di Margot. A mezzogiorno e mezzo lui è sceso per vedere i regali e si è fermato a parlare molto più a lungo di quanto non fosse strettamente indispensabile, cosa che altrimenti non avrebbe mai fatto. Questo pomeriggio è capitata l'occasione. Dato che una volta l'anno voglio viziare Margot, sono andata io a prendere il caffè e poi le patate. Entrata nella stanza di Peter, lui ha tolto subito le sue carte dalla scala. Gli ho chiesto se dovevo chiudere la botola. «Sì», ha risposto lui, «fai pure. Poi, quando torni, basta che bussi e ti apro io». L'ho ringraziato. Sono salita di sopra e ho frugato per almeno 10 minuti per cercare le patate più piccole nel barile grande. Poi ho sentito freddo e un dolore alla schiena. Naturalmente non ho bussato, ma ho aperto la botola da sola. Lui mi è venuto subito incontro con fare molto servizievole e mi ha preso di mano la pentola. Ho cercato a lungo, ma non sono riuscita a trovarne di più piccole. «Hai guardato nel barile grande?» «Sì, l'ho rovistato con le mani». Intanto ero arrivata in fondo alla scala e lui guardava nella pentola che aveva ancora in mano. «Ma vanno benissimo!» ha esclamato, e quando gli ho tolto di mano la pentola ha aggiunto «Complimenti, eh?» Così dicendo mi ha lanciato uno sguardo talmente dolce e caldo che anch'io mi sono sentita calda e dolce dentro. Ho notato proprio che voleva farmi un piacere e, dato che non sa farlo con le parole, si era affidato agli sguardi. Lo capivo molto bene e gli ero estremamente grata. Ancora adesso mi sento felice se penso a quelle parole e a quello sguardo. Quando sono arrivata di sotto, la mamma ha detto che ci volevano altre patate, questa volta per la cena. Io mi sono offerta volontariamente di salire ancora una volta. Giunta da Peter, mi sono scusata per averlo dovuto disturbare di nuovo. Lui si è alzato, si è messo tra la scala e il muro, mi ha presa per un braccio quando ero già sulla scala e voleva impedirmi a viva forza di salire. «Vado io, tanto devo salire comunque», ha detto. Io però gli ho risposto che non era necessario e che adesso non me ne servivano di piccole. L'ho convinto e mi ha lasciato andare. Sulla via del ritorno è venuto ad aprirmi la botola e mi ha preso di nuovo la pentola. Arrivata alla porta gli ho chiesto ancora «Che cosa stai facendo?» «Francese», è stata la risposta. Gli ho chiesto se potevo vedere. Sono andata a lavarmi le mani e mi sono seduta sul divano di fronte a lui. Gli ho spiegato una cosa di francese e ben presto ci siamo messi a parlare. Mi ha detto che dopo vuole andare nelle Indie olandesi e vivere nelle piantagioni. Ha parlato della sua vita a casa, del mercato nero e del fatto che è un buono a nulla. Io gli ho detto che deve avere un forte complesso di inferiorità. Secondo lui, i russi e gli inglesi sicuramente si faranno la guerra. Ha parlato anche degli ebrei. Secondo lui sarebbe molto più semplice se fosse cristiano e se dopo la guerra potesse esserlo. Gli ho chiesto se vuole farsi battezzare, ma la risposta è no. Non può sentirsi come i cristiani, dice. Però dopo la guerra nessuno saprebbe se è cristiano o ebreo. Ho sentito una fitta al cuore. Mi dispiace che continui ad avere questo residuo di insincerità. Peter ha detto ancora: gli ebrei sono sempre stati il popolo eletto e sempre lo resteranno. Io ho risposto: spero sempre che una volta abbiano un destino positivo. Poi abbiamo discorso piacevolmente di papà, del conoscere la gente e di tutti gli argomenti possibili, non ricordo nemmeno più di cosa. Me ne sono andata appena alle 5:15 perché era arrivata Bep. Venerdì 18 febbraio 1944. Mia cara Kitty, ogni volta che vado di sopra l'obiettivo è vedere lui. La mia vita qui in realtà è notevolmente migliorata, perché adesso ha di nuovo uno scopo e ho un motivo di rallegrarmi. Almeno l'oggetto della mia amicizia è sempre in casa e non devo temere rivali, a parte Margot. Non devi subito pensare che io sia innamorata, perché non è vero. Però ho la sensazione che tra me e Peter nascerà qualcosa di bello. Questa qualcosa è l'amicizia, è da fiducia. Quando posso, vado da lui e non è più come prima, che non sa che cosa dirmi. Anzi, continua a parlare anche quando sono già fuori della porta. Mamma non vede di buon occhio che io vada di sopra. Dice sempre che do fastidio a Peter e che lo devo lasciare in pace. Forse non pensa che anch'io ho un po' di intuito? Ogni volta che entro in quella stanzetta lei mi guarda in modo così strano. Quando scendo da sopra mi chiede dove sono stata. Mi scoccia e comincio proprio a non sopportarla più. Tua Anne-Marie Frank. Domenica 20 febbraio 1944. Quello che gli altri fanno durante la settimana nell'alloggio segreto succede di domenica. Quando gli altri vanno a passeggio al sole, vestiti bene, noi siamo qua a lavare, spazzolare e scopare. Ore 8. Nonostante gli altri dormano più a lungo, Dussel si alza ugualmente già alle 8. Va in bagno, poi di sotto, torna su e, nel bagno, si sottopone a un lavaggio che dura tutta un'ora. 9:30. Si accendono le stufe. Si toglie l'oscuramento e Van Daan va in bagno. Una delle penitenze domenicali per me è vedere dal mio letto Dussel di schiena mentre prega. Tutti faranno una faccia strana sentendo che Dussel in preghiera è un'immagine grottesca. Non è che pianga o diventi emotivo, questo no, ma ha l'abitudine di ondeggiare dai talloni alle punte dei piedi per un quarto d'ora, dico, un quarto d'ora. Avanti e indietro, all'infinito, che se non chiudessi gli occhi mi verrebbe il mal di mare. 10:15. I Van Daan fischiano. Il bagno è libero. Da noi le prime teste assonnate si levano dai cuscini. Poi tutto deve accadere in fretta. Una dopo l'altra, io e Margot andiamo a lavarci. Dato che di sotto fa un freddo cane, ci tornano utili un paio di mutandoni lunghi e un fazzoletto in testa. Intanto papà è occupato in bagno. Alle 11 andiamo in bagno Margot e io e poi tutti siamo puliti. 11:30. Colazione. Non mi dilungherò sull'argomento, visto che di cibo qui si parla comunque abbastanza. 12:15. Ognuno si dedica a occupazioni diverse. Papà in tuta ben presto si inginocchia per terra e spazzola il tappeto con tale foga da riempire la stanza di polvere. Il signor Dussel rifà i letti, ovviamente sbagliando tutto, e intanto fischietta sempre lo stesso concerto per violino di Beethoven. In soffitta si sente andare avanti e indietro la mamma che stende il bucato. Il signor Van Daan si mette il cappello e sparisce di sotto, in genere seguito da Peter e da Muschi. La signora indossa un lungo grembiule a punta, un maglioncino di lana nero e sovrascarpe, si avvolge attorno alla testa un grosso fazzoletto rosso, prende sotto braccio un fascio di roba da lavare e, eseguito un perfetto inchino da lavandaia, va a fare bucato. Margot e io laviamo e mettiamo a posto la stanza. Mercoledì 23 febbraio 1944. Carissima Kitty, da ieri il tempo è bellissimo e mi sento molto allegra. La scrittura, che è la più bella occupazione che ho, procede bene. Quasi ogni mattina vado in soffitta per togliermi dai polmoni l'aria viziata della stanza. Questa mattina, quando sono salita in soffitta, Peter stava mettendo in ordine. Ha smesso quasi subito e quando mi sono andata a sedere nel mio posticino preferito sul pavimento è venuto anche lui. Ci siamo messi a guardare insieme il cielo azzurro, l'ipocastano spoglio sui cui rami brillavano minuscole goccioline, i gabbiani e gli altri uccelli che, volando veloci, sembravano d'argento. Tutto questo ci commuoveva talmente che non riuscivamo più a parlare. Lui aveva appoggiato la testa a una grossa trave. Io stavo seduta, respiravamo l'aria fresca, guardavamo fuori e sentivamo di non poter rompere quell'incantesimo con le parole. Siamo rimasti a guardare fuori molto a lungo e quando lui è dovuto andare a spaccare legna avevo ormai capito che è un bravo ragazzo. È salito nel sottotetto, io l'ho seguito e nel quarto d'ora in cui ha spaccato legna abbiamo continuato a tacere. Stavo in piedi a guardarlo. Lui evidentemente faceva del suo meglio per spaccare bene la legna e dimostrarmi la sua forza, ma guardavo anche fuori della finestra. Vedevo un bel pezzo di Amsterdam sopra i tetti fino all'orizzonte talmente pallido che non riuscivo quasi a distinguerlo. Finché esiste questo, ho pensato, e io posso vederlo, questo sole, questo cielo senza una nuvola, non posso sentirmi triste. Per tutti quelli che hanno paura, si sentono soli o infelici, il sistema migliore è certamente uscire, andare in un posto in cui si è completamente soli, soli col cielo, con la natura e con Dio. Perché soltanto allora, solo allora si avverte che tutto è come deve essere e che Dio vuole che gli uomini siano felici nella natura, semplice ma bella. Finché esiste questo, ed esisterà sempre, so che in qualsiasi circostanza può esserci consolazione e sono fermamente convinta che la natura può cancellare molte miserie. Oh, spero tanto che non passi molto tempo prima che io possa condividere questa splendida sensazione di gioia con qualcuno che la senta come me. Tua Anne. Postscriptum. Pensieri. A Peter. Qui ci mancano molte cose, è già da molto tempo, e mancano a me proprio come a te. Non devi pensare che mi riferisca a cose materiali, perché in quel senso abbiamo tutto quello che ci serve. No, parlo di cose interiori. Desidero proprio quanto te la libertà e l'aria, ma credo che siamo stati abbondantemente ricompensati per queste privazioni. Voglio dire, ricompensati internamente. Questa mattina, quando guardavo dalla finestra e in realtà vedevo Dio e la natura, allora ero felice, nient'altro che felice. E vedi, Peter, finché uno ha la felicità dentro, quando è felice per la natura, per la salute e tante altre cose, finché si porta dentro queste cose, potrà soltanto essere felice. La ricchezza, la bellezza, tutto si può perdere, ma la gioia che è nel cuore può essere soltanto offuscata. Per tutta la vita tornerà a renderti felice. Prova, una volta che ti senti solo, infelice o di cattivo umore, a guardare fuori quando il tempo è così bello, non le case e i tetti, ma il cielo. Finché potrai guardare il cielo senza timori, saprai di essere puro dentro e che tornerai a essere felice. Domenica 27 febbraio 1944. Carissima Kitty, dalla mattina alla sera in realtà non faccio altro che pensare a Peter. Dormo con la sua immagine davanti agli occhi, lo sogno e mi sveglio che mi sta ancora guardando. Ho la forte sensazione che Peter e io non siamo molto diversi uno dall'altra come sembra dall'esterno e ti spiegherò anche perché. Sia Peter che io abbiamo bisogno di una madre. La sua è troppo superficiale, civetta volentieri e non si cura molto dei pensieri di Peter. La mia si occupa molto di me, ma è priva di tatto, di sensibilità, non sa essermi madre. Sia Peter che io siamo in conflitto con quello che abbiamo dentro. Tutti e due siamo ancora insicuri e in verità troppo fragili e indifesi per essere aggrediti così dall'esterno. E poi ogni tanto vorrei uscire oppure nascondere quello che provo. Allora faccio fracasso con le pentole e con l'acqua e divento così rumorosa che tutti non desidererebbero altro che io fossi lontana. Lui invece si chiude in sé, non parla quasi, sta zitto e sogna e si nasconde impaurito. Ma come e quando ci incontreremo? Non so per quanto tempo riuscirò ancora a dominare questo mio desiderio senza uscire di senno. Tua Anne Marie Frank. Venerdì 3 marzo 1944. Carissima Kitty, questa sera, guardando la fiamma della candela, sono tornata a sentirmi contenta e tranquilla. In realtà la nonna è dentro quella fiamma ed è lei che mi custodisce, mi protegge e mi rende felice. Però c'è un altro che ha il potere assoluto sul mio umore ed è Peter. Oggi, quando sono salita a prendere le patate, ero ancora sulla scala con la pentola piena in mano che già mi chiedeva: «Che cosa hai fatto questo pomeriggio?» Io mi sono seduta sulla scala e ci siamo messi a chiacchierare. Le patate sono arrivate a destinazione alle 5:15, un'ora dopo che ero salita. Peter non ha più detto una parola sui suoi genitori. Abbiamo parlato soltanto di libri e del passato. Che sguardo caldo ha quel ragazzo. Credo che non manchi molto perché mi innamori di lui. Ne ha parlato lui stasera. Sono entrata da lui dopo aver sbucciato le patate dicendo che sentivo molto caldo. In faccia a Margot e a me si vede subito la temperatura. Se fa freddo siamo bianche e se fa caldo rosse, gli ho detto. Innamorata? Chiede lui. Perché dovrei essere innamorata? La risposta, o piuttosto la domanda, era piuttosto sciocca. Perché no? Insiste lui, ma poi era pronta la cena. Che abbia voluto insinuare qualcosa con quella domanda? Oggi finalmente ho avuto modo di chiedergli se le mie chiacchiere non lo annoiano. Lui ha detto solo: «Io sono contento, sai?» Non saprei giudicare quanto questa risposta fosse dettata dalla timidezza. «Kitty, sono proprio come un'innamorata che non sa parlare d'altro che del suo tesoro. Peter, infatti, è proprio un tesoro. Quando glielo potrò dire?» Ovviamente solo se anche lui trova che io sia un tesoro. Però sono un tipino da prendere con le pinze, questo lo so bene. E lui ama la sua tranquillità, quindi non so in che misura gli piaccio. In ogni caso ci conosciamo un po' meglio. Vorrei soltanto che osassimo parlarci di molte più cose. Ma chissà, forse l'ora verrà prima di quanto io non pensi. Un paio di volte al giorno ricevo da lui un'occhiata di intesa, ricambio con una strizzatina d'occhio e siamo contenti tutti e due. Sembrerò matta a parlare della sua felicità, ma ho la nettissima sensazione che lui la pensi proprio come me. Tua Anne Marie Franca.